Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Adesso è ufficiale, la Formula 1 ritrova il suo campione. Schumacher torna in pista con la Mercedes l'anno prossimo. Maltempo, mattinata da dimenticare per le ferrovie al nord, la situazione in via di miglioramento. In Iran l'opposizione è in piazza, nuovi scontri, la polizia intima di non manifestare. E dopo le tensioni con la comunità ebraica, il Vaticano annuncia Pio XII non sarà beatificato, con Giovanni Paolo II. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, benvenuti a questa edizione di GR24. La notizia era attesa, nella mattinata c'è stata l'ufficialità, la conferenza stampa. Michael Schumacher torna in pista con la Mercedes. Massimo Di Scienza, buongiorno. Buongiorno, dunque è il più grande che torna in pista, 7 volte campione del mondo, 3 anni di assenza, 3 stagioni di contratto. Questi i numeri che raccontano della storia Schumacher-Mercedes, un matrimonio celebrato questa mattina che chiude una lunga telenovela. Michael Schumacher dunque a tutti gli effetti un pilota della Mercedes Formula 1. L'accordo è stato firmato nel quartier generale del team a Brackley in Gran Bretagna. Schumacher, che in gennaio compirà 41 anni, ha siglato un contratto per 3 stagioni, dunque non soltanto una come si diceva alla vigilia. Si parla di una cifra intorno ai 7 milioni di euro l'anno. Schumacher esordirà il 14 marzo in Bahrain con la sua nuova monoposto e affiancherà l'altro tedesco Nico Rosberg. Si ricomporrà tra l'altro il binomio con Ross Brawn, direttore tecnico della Mercedes, con cui Schumacher, lo ricorderete, ha condiviso tanti trionfi in Ferrari. È appena terminata la conferenza stampa di presentazione, mi sento come un bambino di 12 anni, ha detto Schumi. Correrò per vincere il titolo mondiale, 3 anni di assenza mi hanno restituito tutta l'energia, adesso mi sento a posto, mi sento pronto fisicamente. E poi ha concluso Schumacher, forse con un pizzico di involontaria ironia, non chiederò di essere la prima guida della squadra. Gelido il commento dell'ex grande amore di Schumacher, ovvero la Ferrari, in bocca al lupo, da oggi è un avversario e proveremo a batterlo. Per il momento è tutto, a te la linea. Grazie Massimo, e adesso andiamo con le notizie che anche oggi non mancano sul fronte dei disagi che si sono accompagnati al maltempo, che in queste ore è però in via di miglioramento, fortunatamente. Ci aggiorna su tutto Cristina Carpinelli, buongiorno. Sì, buongiorno. Nuovi aggiornamenti per chi viaggia in queste ore per lavoro o per le vacanze. Pesantissimi, come dicevate, i disagi nel traffico ferroviario, in particolare a Milano, dove all'alba tutte le tratte sono state bloccate per danni alle linee elettriche dovuti al gelo. Alle 7.45 le ferrovie hanno annunciato il ripristino della circolazione, ma nella stazione centrale ci sono ancora migliaia di passeggeri in attesa, mentre i treni hanno fortissimi ritardi e alcuni sono stati cancellati. Questi i racconti che abbiamo raccolto nel corso della mattinata. Poi c'è una sola sala d'attesa, piccolissima, ci saranno 100 persone, qua saremo in 2000. Nella sala d'attesa non c'è nemmeno un audio, nessuno dice guardate che qua dovete partire o non partire. La gente è molto arrabbiata. Io dovevo andare a Genova e sono qui in stazione dalle prima delle 6. Non c'è stata una partenza, ne hanno soppressi 2, adesso c'è segnato un 20 miglia che non si sa che cosa fanno. Fanno partire tutti Napoli. Volevo partire ieri, ma all'ultimo minuto ho rimandato perché c'era la grande nevicata, ma oggi pensavo che fosse una giornata normale. È andata molto peggio a questo viaggiatore che da Milano ieri sera era partito alla volta di Napoli. Sentiamo. Napoli Centrale doveva arrivare questa mattina alle 10.12, è partito già in ritardo, con più di un'ora di ritardo, quindi 23.20, è partito mezzanotte passata. Dopo appena 10 minuti credevamo che il treno insomma fosse tutto ok, si è fermato alla stazione di Rogoredo. A Rogoredo è ripartito stamattina alle 9. Abbiamo passato tutta la notte a Milano pensando che, insomma, io addirittura mi sono svegliato alle 5.30 pensando di stare già a Roma. In che condizioni avete passato la notte? Il treno suppongo che sia pieno? Il treno è pieno perché sono un sacco di pendolari o gente che scende anche giù in Sicilia, in Calabria. E all'inizio non funzionava il riscaldamento, faceva molto freddo. Poi dopo, durante la notte, hanno fortunatamente aggiustato, l'hanno riparato e insomma è partito il riscaldamento. In questo preciso istante stiamo entrando nella stazione di Bologna Centrale, vedo proprio il cartello in questo momento. Situazione migliore sulle autostrade, che restano generalmente percorribili nonostante la neve e la pioggia gelata che colpiscono da oltre 30 ore vaste aree del nord Italia, in particolare Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia. È stata riaperta al traffico la A6 Torino-Savona dopo l'incidente avvenuto ieri pomeriggio in cui ha perso la vita un camionista di Torino di 50 anni. Il freddo intenso di questi giorni a Torino ha creato problemi anche al Museo Egizio. Andiamo a sentire però come va oggi in Piemonte e a Torino con Marco Ferrando. Marco. Sì, buongiorno. Come accennavate da studio, la situazione sta migliorando anche qui in Piemonte, nel senso che da questa mattina non nesca più, la temperatura si è alzata, quindi in alcune parti piove, in altre invece c'è un po' di nebbia, comunque appunto basta neve. Quindi in particolare a Torino la circolazione è rallentata perché è rimasta comunque un po' di neve sulle strade, ma comunque regolare, così come sulle autostrade, come dicevate, sono tutte aperte, si viaggia a velocità rallentata, ma comunque sono tutte aperte, compresa la Torino Savona e la Genova Gravellona, che erano state chiuse nella notte per incidenti. È un po' più complessa ancora la situazione per quanto riguarda i treni, infatti questa mattina sono stati cancellati una quindicina di convogli sulle linee minori, mentre per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza, così come i treni della Torino-Milano che ieri erano stati pesantemente sacrificati, la situazione sta migliorando, ormai le partenze sono quasi regolari, così come anche a Caselle, l'aeroporto di Caselle, partenza regolare dopo una mattinata difficile, ma con qualche ritardo, un paio di cancellazioni, niente di più. Linea allo studio. Grazie allora a Marco Ferrando e grazie anche a Cristina Carpinelli per gli aggiornamenti sulla situazione. Come sentivate, il sole splende già su alcune città del nord che in queste ore hanno dovuto affrontare parecchie difficoltà. Ma la domanda che tutti si pongono ancora è: cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime ore per quanto riguarda il tempo? Allora l'abbiamo chiesto a Giovanni Di Piero del centro Epson Meteo. In queste ore stiamo vivendo una fase temporanea di miglioramento sull'Italia, una perturbazione se n'è andata, mentre un'altra arriverà in serata al nord e sulla Toscana. È una perturbazione che verrà seguita da una seconda perturbazione in arrivo già domani, che sempre condizionerà il tempo soprattutto delle regioni settentrionali e quelle del versante medio tirrenico, con alcune piogge a tratti anche se non continue e con quota neve in aumento progressivo in montagna sulle Alpi. Andrà un po' meglio la vigilia di Natale per quanto riguarda il sud, dove i passaggi nuvolosi saranno alternati anche da alcune schiarite. Poi nella giornata di Natale avremo alcune parziali schiarite sull'estremo nord-ovest, il Piemonte per intenderci, sul medio Adriatico e sulla Sardegna, soprattutto sul settore orientale. Altrove le nuvole saranno un po' più compatte, saranno un po' più ridotte le schiarite, e avremo anche alcune piogge a tratti sulla Lombardia, sul Triveneto e sul settore tirrenico, al mattino anche su buona parte del sud peninsulare. In questi giorni di gelicidio, cioè della pioggia ghiacciata, un fenomeno piuttosto raro. Di cosa si tratta esattamente? Si tratta di pioggia che va a toccare un suolo che è sotto zero anche di alcuni gradi in modo consistente, quindi vi sono condizioni termiche dell'atmosfera tali per cui il fenomeno cadrebbe sotto forma di pioggia, però una volta arrivato al suolo si gela istantaneamente, creando tra l'altro un tipo di ghiaccio stile vetro, vetroso, molto pericoloso, perché insomma va a creare queste superfici molto molto scivolose, tra l'altro può creare anche su dei parabrezza delle macchine una gelata istantanea tale da non poter da impedire la visibilità a chi sta guidando. E così dunque Giovanni Di Piero del centro Epson Meteo al microfono della nostra Maria Piera Ceci. Si è parlato molto in queste ore della possibilità che ci fossero dei rimborsi per i biglietti dei treni soppressi, treni in ritardo, ma anche della assistenza ai viaggiatori. Che cosa prevedono le normative? Ne vogliamo parlare con Paolo Martinello, presidente di Altro Consumo. Buongiorno. Eccomi, buongiorno. Allora, facciamo un breve passo indietro, perché Moretti aveva detto portatevi i panini, una frase che rimarrà storica. A dire la verità, il ministro Matteoli poi aveva detto, ma forse è un po' sotto stress Moretti. In ogni caso, questa dichiarazione ha scatenato poi una serie di reazioni. Voi però avete detto a Moretti, è lui che ha la responsabilità di portare il panino, cioè di garantire l'assistenza. Partiamo da qua, Martinello. Sì, sembra una battuta, ma in realtà è proprio così, perché pochi giorni fa è entrato in vigore anche in Italia un regolamento dell'Unione Europea sui diritti dei passeggeri dei treni, e fra gli obblighi che le società che gestiscono il servizio hanno c'è quello, in caso di ritardi superiori ai 60 minuti, c'è quello di informare, c'è quello di assistere e quello di risarcire e rimborsare una parte del prezzo. Nella l'assistenza è prevista anche l'obbligo di dare cibi e bevande sia a terra, sia nelle stazioni che durante il viaggio ai passeggeri vittime dei ritardi. Quindi una, come dire, un po' un'utopia, se vogliamo. Certamente quello che è avvenuto in questi giorni, certo, è ben diverso, e la battuta di Moretti, devo dire, era molto infelice, anche perché era in contrasto con quello che dice il regolamento, che e forse, forse anche controproducente da un certo punto di vista. L'altro tema, andando nello specifico, Martinello, quello dei rimborsi dei biglietti. Matteoli ha detto faremo ricorso all'Unione Europea, non si capisce bene perché in realtà su questo tema, visto che i ritardi erano anche ampiamente prevedibili, forse stessa Trenitalia avrebbe potuto fare tariffe ribassate, sapendo che tutti i servizi aggiuntivi, dite voi, come l'alta velocità per esempio, erano ovviamente da lasciar perdere in quelle ore. Beh, diciamo che oltretutto erano tariffe proprio aumentate del 10-20%, anche più, proprio nei giorni scorsi. Ma a parte questo, noi diciamo che il regolamento di cui parlavo prima è applicabile anche in caso, in una situazione come quella che si è verificata in questi giorni. Non è una catastrofe naturale, come dice il regolamento Trenitalia, cioè una situazione nella quale la compagnia non sarebbe stata responsabile. Qui siamo di fronte a un evento meteorologico non di tutti i giorni, ma certamente non paragonabile a una catastrofe naturale, e quindi i rimborsi sono dovuti. E quindi se i treni partivano già con una o due ore di ritardo, sarebbe stato ragionevole, e anche mi sembra molto corretto, che addirittura venissero scontati in anticipo i vari supplementi, i vari aumenti di prezzo, i vari componenti della tariffa che sono legati al rispetto di certi orari e di certi parametri. Benissimo, grazie. Però questo dovrà avvenire, adesso lo siamo. Staremo a vedere, perché che questo venga riconosciuto. Certo, come la partita ha detto è aperta. Anche Matteoli. La partita è aperta. Grazie. Allora, Paolo Martinello, presidente di Altro Consumo, per questi chiarimenti. E intanto ci sono anche i primi dati sull'influenza di questi giorni di maltempo e di difficoltà negli spostamenti per le persone nei giorni delle spese prima di Natale. Un lunedì in bianco per la distribuzione italiana, lo segnalano i dati Nielsen, che evidenziano per quella giornata un meno 12,5% delle vendite rispetto allo stesso lunedì dell'anno scorso, il 22 dicembre. E un altro aspetto riguarda anche i luoghi di interesse del patrimonio culturale e artistico italiano. L'Arno in queste ore, in questi minuti proprio, a quanto si apprende da Firenze, minaccia gli Uffizi, che come sapete sono a ridosso per un possibile straripamento del fiume. Naturalmente scongiuriamo che questo accada. Invece è accaduto a Torino qualcosa che riguarda il Museo Egizio. Infatti a causa del gelo si è rotta questa notte una valvola di una tubazione, degli idranti, è fuoriuscito acqua nel complesso museale, il secondo, ricordiamo, per importanza dopo quello del Cairo. L'allarme è stato dato questa mattina e subito sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Torino. Il presidente del Museo Egizio di Torino, Lennel Khan, l'ha sentito poco fa Adriana Fracchia. Non è allagato e c'è stata una perdita che ha soprattutto causato danni all'Accademia delle Scienze, purtroppo, alla Sala dei Mappamondi. Ma no, per quanto ci riguarda abbiamo velocemente spostato, insomma non ci sono stati danni, diciamo, più che altro sono dei danni all'edificio, ecco. Quindi nessun danno alle opere? No, del Museo Egizio no, purtroppo ci sono qualche danno nella sala dei Mappamondi, che è una bellissima sala di conferenze dell'Accademia delle Scienze con cui dividiamo il palazzo, sì. Insomma, conosco bene la sala dei Mappamondi, ma mi auguro che insomma tutto ritorni presto nell'ordine. 13:17 minuti, ben ritrovati nella seconda parte di GR24. Nella prima abbiamo parlato della situazione maltempo, gravi ritardi nelle ferrovie questa mattina, treni in tilt soprattutto in Lombardia a causa del ghiaccio, ma adesso a mano che la temperatura e gli interventi dei tecnici vanno avanti, la temperatura che sale, la situazione è in netto via di miglioramento. Poi abbiamo parlato anche del ritorno ufficiale questa mattina alla conferenza stampa di Michael Schumacher, 3 stagioni con la Mercedes, 7 milioni di euro l'anno, così la Formula 1 ritrova il suo più grande campione. Adesso le altre notizie, a cominciare dal Vaticano. Vaticano, che questa mattina ha dato un annuncio che riguarda la beatificazione di Pio XII, un tema che aveva sollevato le perplessità e la freddezza della comunità ebraica. Sentiamo. Il Vaticano torna sulle polemiche legate alla beatificazione di Pio XII. La dichiarazione sull'eroicità delle sue virtù, sottoscritta sabato scorso da Benedetto XVI, assieme a quella di Giovanni Paolo II, non ha nessun significato storico, ma è solo una valutazione di fede, ha fatto sapere con una nota oggi il portavoce del Vaticano, padre Lombardi, rispondendo così alle perplessità della comunità ebraica, secondo la quale Papa Vacelli non avrebbe fatto abbastanza per opporsi alla Shoah. Nello stesso comunicato si legge anche che la causa di beatificazione di Pio XII seguirà un iter diverso da quello di Papa Wojtyla. Il Vaticano auspica anche che la vicenda non sia considerata un ostacolo sul cammino del dialogo fra ebraismo e Chiesa Cattolica e spera anche che la prossima visita di Benedetto XVI alla Sinagoga di Roma serva anzi a rinsaldare i vincoli di amicizia che legano la Chiesa al popolo ebraico. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso invece andiamo all'estero, in Iran, dove oggi ci sono stati nuovi scontri tra la polizia e i sostenitori del religioso dissidente Montazeri. La polizia ha anche intimato ai manifestanti di non scendere in piazza. Sentiamo. E di una cinquantina di arresti e un numero ancora imprecisato di feriti, il bilancio provvisorio degli scontri avvenuti nella città iraniana di Isfahan tra la polizia, i basigi e i partecipanti a una cerimonia in memoria dello scomparso ayatollah dissidente Hossein Ali Montazeri. Lo riportano appunto i siti internet iraniani di Razebaz e Parliament News. Lo scontro tra i riformisti e fronte conservatore guidato da Ali Khamenei, la guida suprema, continuerà il 26 dicembre, il giorno di Ashura, una delle festività più importanti del calendario iraniano e che cade anche nel settimo giorno della morte di Montazeri. Il governo di Ahmadinejad è in grave crisi di legittimità e non ha la forza di reprimere né di aprire all'opposizione. Una situazione davvero difficile. Vittorio Darold, GR24, Il Sole 24 Ore. E dall'estero rientriamo in Italia, perché a due giorni dal via libera definitivo alla finanziaria, oggi conferenza stampa di fine anno per il ministro Tremonti, che è tornato sull'argomento. Sentiamo come. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. La finanziaria approvata in via definitiva dal Senato e poi lo scudo fiscale e più in generale la politica economica dell'esecutivo al centro della conferenza stampa convocata oggi qui al Tesoro dal ministro Tremonti. Una manovra, quella che ha ricevuto il via libera di Palazzo Madama, ha detto Tremonti, che non aumenta le tasse, impiega anzi per un terzo i proventi dello scudo fiscale. Un provvedimento, secondo il ministro, che ricalca i tempi di crisi, il meglio che si poteva fare. Il ministro ha quindi analizzato proprio come il nostro paese ha reagito alla congiuntura internazionale. L'Italia ha tenuto, il sistema ha tenuto, ha detto Tremonti, grazie al contributo di tutti, governo, famiglie, imprese, parti sociali. Sullo scudo fiscale, in particolare il responsabile dell'economia ha detto che il gettito ha superato gli 80 miliardi di euro e la proroga si è resa necessaria perché altri capitali stanno rientrando. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti sulle parole del ministro Tremonti. Ora parliamo di Fiat. Ieri è stato presentato il piano industriale a Palazzo Chigi. Il lingotto, come sapete, prevede di investire 8 miliardi di euro in 2 anni, di cui 2/3 in Italia. Si prevede anche la ristrutturazione dello stabilimento di Pomigliano, chiusura invece per quello di siciliano di Termini Imerese dal 2012. Uno stop annunciato che però per la Sicilia significa dover trovare soluzioni occupative. Così il sindaco di Termini Imerese, Salvatore Burrafato, è intervenuto questa mattina, 9 in punto, ospite di Oscar Giannino. Io sono convinto che bisogna lavorare sul numero di auto da fare in Italia. Secondo noi la soglia non è 1 milione, si può alzare ancora, e dentro questo ragionamento tentare di trovare quali condizioni mettere in campo per far sì che lo stabilimento di Termini regga il mercato e che regga i costi. Ieri Marchionne diceva Termini paga un prezzo perché non ha né un indotto né una logistica. Mi pare che i piani industriali li faccia lui, quindi sull'indotto se vuole può intervenire, sulla logistica è chiaro che i governi nazionali e regionali, se credono ancora in quel territorio, se ritengono che la sorte di 2200 famiglie merita un investimento, si può ancora lavorare. Il ministro Scajola ha preteso di avviare un tavolo che sarà fatto sotto il coordinamento della Presidente del Consiglio dei Ministri e che avrà un profilo tecnico al Ministero per lo Sviluppo Economico. A quel tavolo parteciperà la Regione Siciliana, che ha una serie di argomenti, una serie di convenienze sotto il profilo sicuramente della logistica. Il clima è sicuramente diverso invece a Pomigliano d'Arco. Sentiamo. A Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, il giorno dopo l'annuncio dell'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne che nello stabilimento si produrrà dal 2012 la nuova Panda, si avverte finalmente un'aria più distesa tra gli operai che in questo momento sono al lavoro per recuperare i giorni persi la scorsa settimana per lo sciopero indetto dai sindacati in difesa delle 100 tute blu con contratto a termine che scadrà tra pochi giorni, il 31 dicembre, per cui il Lingotto non ha previsto il rinnovo. Finalmente Noi tutti abbiamo una nuova prospettiva di lavoro e siamo felici anche per i nostri figli, così anche loro avranno un futuro e così anche la Fiat di Pomigliano possa ritornare agli splendori di una volta. Io però con contratto a termine speravano in qualche notizia ieri dalla tavola di Palazzo Chigi, ma purtroppo non è stato così e questa mattina per richiedere un tavolo urgente alla Regione Campania si sono incatenati davanti al municipio di Pomigliano d'Arco. Siamo incatenati fuori al comune di Pomigliano perché vogliamo un tavolo subito con Fiat e Regione, perché siamo esasperati e abbiamo famiglie e non sappiamo dove vivere più. Paolo Picone, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E adesso però vogliamo entrare un po' nei contenuti del piano presentato da Marchionne, vogliamo vedere come affronterà la Fiat l'anno prossimo. Andrea Malan, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, il punto è questo, Andrea, sappiamo che il mercato dell'auto l'anno prossimo prevede un'ulteriore contrazione delle vendite, ieri la presentazione del piano, questa è la situazione degli stabilimenti. Per quanto riguarda l'Italia, Andrea, i contenuti del piano di Marchionne che dicono, sono convincenti secondo te? Il piano è un piano adatto alle circostanze, appunto, che vedranno l'anno prossimo quasi sicuramente, lo prevedono praticamente tutti, un ribasso del mercato europeo fra il 5 e il 10%, anche supponendo che in Italia, se gli incentivi alla rottamazione verranno rinnovati, il calo sia inferiore, comunque diciamo che la produzione degli stabilimenti italiani di Fiat difficilmente potrà salire molto rispetto alle 650.000 unità di quest'anno, anzi c'è il rischio, se in caso di forte calo del mercato, che diminuisca ancora. Quindi sicuramente il 2010 sarà un anno difficile. Marchionne stesso, secondo me, ha pensato di utilizzare per esempio il periodo di riattrezzatura e riorganizzazione dello stabilimento di Mirafiori anche come ponte per superare questo momento difficile, oltre che per passare a una diversa organizzazione del lavoro e anche a modelli diversi di auto. Quindi questa è sicuramente una componente della strategia. Per quanto riguarda invece gli investimenti, 8 miliardi in due anni, di cui 2/3 in Italia, sono un livello di investimenti che è abbastanza simile a quello che c'è stato per tutta la gestione Marchionne, diciamo, in media. Quindi è sicuramente da un lato un segnale di fiducia, nel senso che io mantengo un determinato livello di investimenti anche in presenza di una situazione difficile, dall'altro bisognerà poi vedere esattamente in cosa consisteranno. Da questo punto di vista il piano prodotti presentato ieri per il 2010 e per il 2011, per esempio, conferma per l'anno prossimo alcune delle cose che già si sapevano, quindi il lancio della Giulietta all'inizio dell'anno, il lancio del Doblò che è già stato anche presentato, una serie di modelli derivati per il marchio Abarth. Per il 2011 arriveranno modelli ancora più importanti come la nuova Panda, che, come avete detto, verrà probabilmente prodotta a Pomigliano, la nuova Ypsilon che verrebbe invece spostata in Polonia se verrà confermata la chiusura di Termini Imerese, e un monovolume di piccole dimensioni che in sostanza andrebbe a sostituire sia le attuali Idea e Musa che la Multipla, e che verrebbe prodotto appunto in questa Mirafiori rinnovata. Quindi diciamo che c'è sicuramente un piano di sviluppo prodotti, anche se Marchionne si è tenuto relativamente prudente, cioè non si è sbilanciato sugli anni successivi, anche perché sappiamo che c'è in ballo il cantiere con Chrysler, l'integrazione molto forte prevista con la Chrysler. Certo. Per il 2010 e per il 2011 arriveranno un sacco di modelli importati dagli Stati Uniti e assegnati di volte ai marchi, soprattutto Lancia ma anche Fiat, quindi bisognerà vedere anche come questa integrazione inciderà e se inciderà positivamente sulle vendite del gruppo Fiat in Europa. Fermiamoci qua per il momento, grazie ad Andrea Malan per questa pagina su Fiat. Abbiamo aperto il giornale radio parlando del grande, più grande forse campione di Formula 1, Michael Schumacher, che ha rinnovato, ha fatto il contratto ufficiale con la Mercedes, e invece il più grande forse campione di motociclismo, Valentino Rossi, era stato chiamato in ballo più volte dai lavoratori della Lesmo Yamaha, di Lesmo vicino Monza. Ebbene, anche senza un suo intervento, questa notte la cosa si è risolta perché l'azienda ha concesso la cassa integrazione per i 66 lavoratori che non l'avevano ottenuta, come conferma Paolo Mapelli al microfono di Maria Piera Ceci. Sì, sì, sono venuti proprio lì in serata, hanno visto questa carta scritta dentro in azienda, anche i nostri sindacalisti ci hanno detto ok, tutto a posto, possiamo scendere. Siete soddisfatti o comunque è una soddisfazione amara perché tutto sommato, insomma, avete ottenuto la cassa integrazione ma il posto non c'è più? Sì, è come dici te, è una questione ancora un po' amara perché noi nonostante tutto il posto lì non ce l'avremo più. Però possiamo ritenerci soddisfatti perché la cassa integrazione in questo periodo era molto importante. Senti, ti sei scaldato? Quanti giorni sei stato sul tetto? 7 giorni. È stato bello tornare a casa al caldo? Sì, diciamo che quasi mi rincuorava lasciare tutto la nostra costruzione lassù. Un po' ti è dispiaciuto perché è stato comunque un momento di grande condivisione con gli altri tuoi compagni di lavoro. Sì, poi io sono un ex alpino, perciò queste cose qua le vivo con grande impegno, sia che sia una piccola impresa, sia che sia un'impresa. Per me è sempre un grappino e passa il freddo. È un momento di commozione ugualmente. Termina qua questa edizione di GR24, in studio Alessio Maurizi, al coordinamento Maria Piera Ceci, in regia Carmelo Lauricella. Adesso è la volta di Stefano Pistolini con Buongiorno America. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.